Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni, a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. Già quest'inizio per me di un descrittivo e di un poetico che veramente coinvolge, probabilmente come più volte mi sono confrontato con accademici e con chi ha studiato, con amiche e con amici, ma no, ma insomma i Promessi Sposi l'abbiamo maledetto, e probabilmente non sto certamente inneggiando all'abbandono scolastico, ci mancherebbe, anzi io sono stato un asino ma con la maiuscola e non basta. Però probabilmente dopo i percorsi da autodidatta mi hanno permesso con più facilità di amare questo capolavoro assoluto. Don Lysander, come veniva chiamato tra Milano e la sua Brianza, Alessandro Manzoni, con uno sguardo e un laboratorio di lettura ed eventi a cura di Anna Amadori, che ho contattato per darne una breve presentazione, parte con un primo appuntamento in programma domenica 11 febbraio alle ore 17:30 presso una quadreria tra opere d'arte San Pellegrino di Emilbanca di Argelato Bologna, scusate, per quanto riguarda il luogo, e con le donne di Manzoni, dopo le elencheremo anche, sono diverse le protagoniste, e sulla musica della violinista Virginia Sutera, Giuliana Nuvoli ci accompagnerà nell'universo femminile di Alessandro Manzoni con 9 ritratti di donne, 4 della sua vita: Giulia Beccaria, la madre Enrichetta Blondel, Teresa Borri, le mogli, Clara Maffei, insomma ve ne sono diverse, come ho già elencato alcune delle protagoniste. Sabato 9 marzo al Parco del Sapere, Biblioteca Comunale Natalia Ginzburg a Castelmaggiore, Luca Scarlini ci conduce nella dimensione gotica dei Promessi Sposi, cioè a tante di quelle interpretazioni il lavoro del Manzoni che vi è anche lo spazio per un aspetto più gotico, e poi i laboratori curati da Anna Amadori, di cui lei stessa ci parlerà, e inizieremo la nostra conversazione dal perché Alessandro Manzoni e perché i Promessi Sposi. Facciamo una chiacchierata per dare anticipazione a questo laboratorio di lettura e anche eventi curato da Anna Amadori qui con noi. Bentornata Anna, buongiorno. Buongiorno. Perché la scelta dei Promessi Sposi per questi incontri? Allora, Promessi Sposi intanto perché è un grande romanzo, un grandissimo romanzo che è stato in qualche modo nei nostri ricordi, è legato a magari a delle sofferenze scolastiche, ma in realtà è un romanzo che appunto paga anche questa sua grandissima importanza sul piano storico, culturale e artistico italiano. Quindi i Promessi Sposi perché sono i Promessi Sposi, e io sono diverso tempo che faccio i percorsi, diciamo, formativi sui Promessi Sposi legati alla mia attività di formazione alla lettura e alla parola e alla lingua, e grazie a questa mia ruolo che ho in Agorà di cura dei percorsi formativi sono riuscita a creare intorno a questa mia passione, che non è condivisa da molte persone, comunque sono riuscita a creare un progetto piccolo ma di grande qualità, articolato appunto in un laboratorio di lettura sui Promessi Sposi che parte dal 7 di marzo, quindi ogni giovedì per 10 incontri, un incontro settimanale, 2 ore serali, aperto a tutti e gratuito. E accanto a questo sono molto felice di poter presentare al pubblico un affondo da una parte sulla figura del Manzoni, ed è in particolare questo il prossimo appuntamento, quello che abbiamo domenica alla quadreria di tiro di San Pellegrino Emilbanca di Argelato, con le donne di Manzoni, scritte scritto e interpretato da Giuliana Nuvoli con le musiche di Virginia Sutera, ed è un percorso, un reading, un recital che ci porta dentro la vita di Manzoni e dentro la sua arte, perché racconta le storie delle donne del Manzoni, che sono la madre, importantissima figura, la Giulia Beccaria, con cui Manzoni ha un rapporto molto forte, molto anche in qualche modo conflittuale, contrastato, Enrichetta Blondelli, moglie, Teresa Borri, le due, la Massei, e poi Ermengarda, la madre di Cecilia, dei Promessi Sposi, la monaca di Monza, la Lucia Mondella, la vecchia del castello, quindi le donne, delle figure femminili che lui ha disegnato nelle sue opere, ma anche le figure femminili che hanno contato tantissimo nella sua vita. Italia giovani, se leggiamo è per merito del Manzoni, eh? Romanzo storico, le figure femminili protagoniste, sabato 9 marzo alle ore 21, ne daremo poi approfondimento. Per quanto riguarda Sette note in nero, quello che invece riprende una dimensione gotica, per il primo appuntamento, come vi ho detto, domenica 11 febbraio, quindi domani l'altro, presso la quadreria Ritiro San Pellegrino di Emil Banca ad Argelato, siamo nella programmazione di Agora, le donne di Manzoni, sulle musiche della violinista Virginia Sutera e la lettura di Giuliana Nuvoli, che ci accompagnerà in questo universo femminile quanto mai affascinante. Insomma, ce n'è per quanto riguarda un approfondimento manzoniano. Onore al merito ad Anna Amadori, che ha lavorato e ha dato diffusione, uno sguardo su Manzoni che ne svela l'umanissima vita e segue il filo di un perfetto noir con i Promessi Sposi. Ma no, non solo noir, cioè adesso è un capolavoro, dai, quindi c'è tutto. teatri@renogalliera.it per la prenotazione. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, e il laboratorio anche è gratuito. Le iscrizioni devono arrivare entro lunedì 4 marzo ovviamente 2024. È la stagione di Agora, quindi associazioneliberty.it per quanto riguarda gli incontri organizzati dalla curatrice attrice Anna Amadori per la stagione di Agora. Ora di Giulia Beccaria, poi tra le donne del Manzoni, una di quelle che mi affascina di più, vedova Manzoni, è stata una nobildonna italiana, figlia di Cesare Beccaria, di cui vi ho parlato tempo fa, moglie di Pietro Manzoni e madre ovviamente dello scrittore Alessandro. We'll be right back. Sì, quindi ha un sangue da illuminato Manzoni, è il nonno Cesare Beccaria, autore, scrittore, giurista, filosofo, un grande illuminista, anzi per quanto riguarda il panorama italiano con la sua opera principale, il Trattato dei delitti e delle pene, un'analisi politica e giuridica contro la pena di morte e la tortura, un illuminato, beh pensate quanto stiamo andando più indietro. Secondo incontro, questo aspetto con personaggi, con i cosiddetti cattivi, insomma, disegnati dal Manzoni. L'altro appuntamento è più in là, sabato 9 marzo, l'accenno soltanto, ma è invece uno sguardo molto particolare di Luca Scarlini, che è molto conosciuto, è un attore, un performer, una voce di Radio 3 e collabora con molte università, sia italiane sia straniere, con molte istituzioni teatrali italiane e straniere. Il lavoro che lui ci presenta si chiama Sette note in nero, un racconto gotico dei promessi sposi. Io ho raccolto intorno a questo progetto delle persone che in qualche modo hanno una mia stessa visione, una visione che, simile alla mia rispetto ai promessi sposi. Lui appunto dice la ricezione dei promessi sposi di Alessandro Manzoni è stata funestata dagli orientamenti politici che se ne sono impadroniti nel corso della storia italiana, senza permettere di apprezzarne la seduzione, il fascino e la follia. I promessi sposi in Sette storie nere trattano meno di provvidenza e più di disgraziata contingenza del vivere, mentre il percorso cui ci accompagna Giuliana Nuvoli è appunto un percorso dove 9 monologhi sono preceduti da una breve narrazione delle loro figure in un reading che coniuga emozione, precisione filologica, scienza e arte. 9 donne incredibilmente vicine a noi, con la loro forza, la loro intelligenza e una straordinaria capacità di interpretare la vita. Questo lavoro è prodotto dall'Associazione Dante, da Casa Manzoni, Centro Nazionale Studi Manzoniani, ed è inserito nel palinsesto di Manzoni 150, perché quest'anno è il centenario della nascita di Manzoni, al patrocinio del Comune di Milano, dell'Associazione degli Italianisti, della Società Dante Alighieri Lingua e Cultura Italiana. Ci tengo molto a questa cosa, invito anche le persone domenica 11 febbraio, perché il reading si svolge in un bellissimo posto di Argelato, dove c'è una raccolta di quadri molto importante, molto interessante, anche se di Vittorio, cosiddetti pittori minori, ma che riservano sempre molte sorprese. Bene, ascolta, io ti ringrazio tantissimo, condividiamo una passione, sai perché amo tanto i Promessi Sposi e Manzoni? Perché non ho studiato, sono arrivato alla terza media, quindi me lo sono letto da me. Probabilmente questo mi ha aiutato ad amare a saltare l'aspetto accademico, hai capito? Quindi magari certo, non sono precisissimo, però non mi ha annoiato di certo a me i Promessi Sposi. Anzi, benissimo, vedi? Allora ti invito a vedere una di queste cose, perché appunto riaccostarsi ai Promessi Sposi suscita tanti sentimenti, certo, no? La frustrazione rabbiosa. Anche il finale è meraviglioso. Ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione. Appuntamento con Don Lysander. A presto. Grazie, ciao. seguite la programmazione del laboratorio di lettura da Agora, stagione Liberty, ottava edizione, stagione teatrale arrivata al 2024, laboratorio di lettura ed eventi, due eventi, uno dedicato alle donne del Manzoni, domenica 11 febbraio alle ore 17.30 presso la quadreria Ritiro San Pellegrino di Emilbanca, siamo ad Argelato, e sabato più avanti 9 marzo invece al Parco del Sapere, biblioteca comunale Natalia Ginzburg di Castel Maggiore, per questa visione di un Manzoni con i personaggi cosiddetti cattivi, una visione gotica del capolavoro dei Promessi Sposi, e poi i laboratori che verranno curati da Anna Amadori. Preso dall'entusiasmo, non vorrei aver fatto poi un refuso, ho parlato di illuminismo e illuministi, se mi è scappato detto illuminati, non è corretto, anzi, perché è un altro movimento, magari ve ne parlerò per ammorbarvi, annoiarvi ulteriormente, i famigerati illuminati di Baviera, anche questa è una storia estremamente affascinante, avremo modo di parlarne, dai, intanto al Breakfast Club per il momento lo spazio va alla pubblicità, si rientra con il Carnevale, il premio internazionale della satira e dell'umorismo, Bertoldo ovviamente, sabato 10 febbraio alle ore 17.30 Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. Ne parleremo con Andrea Santo Anastaso in diretta telefonica. A tra poco!